attacca il telefono, prova, che ne sveglio con la bagazzone polare. Date tutti in via Bottego numero 3, via Bottego numero 3, famiglia San, abitante via Bottego numero 3. Hai capito? Coglione, coglione! Conosco tua madre una bagazza, te l'ho detto, tua madre è una bagazza, hai capito? E mi hai rotto i coglioni! Aspetta, che tu hai il numero tuo, aspetta, froscio. Fai che domani te ne crepa tua madre, non preoccupare. Sentite il tuo telefono squillare, o vuoi che te lo faccio squillare tutta la notte? Froscio, è tua madre, è una bagazza, hai capito che mi hai rotto i coglioni? Che tanto lo so, hai capito, froscio, è inutile che parli a voce bassa, hai capito? Brutto coglione! Mi prema quel mio conno, schiattate tutte e due, non rompa. Hanno ritirato parecchio, adesso te lo ritirano anche a te, non rompa. Auto, non faccio cucciucciucciu. Da domani ti piombo di telefonata a casa tua, hai capito? Guasto. Scoppi domani a otto, guarda che squilla il telefono. Zebra vetta a 10, capito? Tu e zebra, capito? Beh, è arrivato lo stronzo, non ti ho capito. Pensa ti squilla il telefono a casa tua, vuoi che ti squilla tutta la notte? Pezzo di coglioni! Questo! Da casa tua, porco, quella bagasse mamma tua, te l'ho detto sempre, quella bagasse mamma tua, il 243364 di nuovo, coglione, adesso rompo di nuovo il coglione a tua madre, aspetta.